Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, nona traccia. Fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato. Oh, povero me, povero me! Gridò Pinocchio pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro. Caro mio, replicò la marmottina per consolarlo, che cosa ci vuoi tu fare? Oramai è destino. Oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari. Ma davvero è proprio così? Purtroppo è così e ora i pianti sono inutili, bisognava pensarci prima. Ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo. E chi è questo Lucignolo? È un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa. Io volevo essere ubbidiente e io volevo seguitare a studiare e a farmi onore. Ma Lucignolo mi disse: perché vuoi tu annoiarti a studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più. Ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri. E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno? Perché? Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, beh, se avessi avuto un zinzinino di cuore non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo come ce n'è tanti. Ma se incontro Lucignolo, guai a lui. Oh, gliene voglio dire un sacco e una sporta. E fece l'atto di volere uscire, ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e, vergognandosi di mostrarli al pubblico, che cosa inventò? Prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercare Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò. Ne chiese notizie a quanti incontrò per la via, ma nessuno l'aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa e, arrivato alla porta, bussò. «Chi è?» domandò Lucignolo di dentro. «Sono io!» rispose il burattino. «Aspetta un poco e ti aprirò!» Dopo mezz'ora la porta si aprì. E figuratevi come restò Pinocchio, quando, entrando nella stanza, vide il suo amico Lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé: che l'amico sia malato della mia medesima malattia, che l'abbia anche lui la febbre del ciuchino. E facendo finta di non essersi accorto di nulla, gli domandò, sorridendo: come stai, mio caro Lucignolo? Benissimo, come un topo in una forma di cacio parmigiano. E lo dici proprio sul serio? E perché dovrei dirti una bugia? Scusami, amico. E allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi? Me l'ha ordinato il medico perché mi son fatto male a questo ginocchio. E tu, caro burattino, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso? E me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede. Oh, povero Pinocchio. Oh, povero Lucignolo. A queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio, durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi tra loro in atto di canzonatura. Finalmente Il burattino, con una vocina melliflua e flautata, disse al suo compagno: «Levami una curiosità, mio caro lucignolo. Hai mai sofferto di malattia agli orecchi?» Mai. E tu? «Mai. Peraltro, da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare. Ho lo stesso male anch'io.» Anche tu. «E qual è l'orecchio che ti duole?» Tutte e due. E tu? «Tutte e due anch'io, che sia la medesima malattia.» Ho paura di sì. «Vuoi farmi un piacere, lucignolo?» Volentieri, con tutto il cuore. «Mi fai vedere i tuoi orecchi?» Perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio. «No, il primo deve essere tu.» No, carino, prima tu, dopo io. «Ebbene, allora facciamo un patto da buoni amici.» Sentiamo il patto. «Leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo. Accetti?» Accetto. «Dunque, attenti.» E Pinocchio cominciò a contare a voce alta: «Uno, due, tre!» Alla parola tre, i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria. E allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera. Avvenne, cioè, che Pinocchio e Lucignolo, quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia, invece di restare mortificati e dolenti, cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata e risero, risero, risero da doversi reggere il corpo. Se non che sul più bello del ridere, Lucignolo tutt'a un tratto si chetò e barcollando e cambiando colore disse all'amico: «Aiuto, aiuto, Pinocchio!» «Che cos'hai?» «Oh, ohimè! Non mi riesce più di star retto sulle gambe!» «Non mi riesce più neanche a me!» gridò Pinocchio piangendo e traballando, e mentre dicevano così, si piegarono tutte e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare, a correre per la stanza. E intanto che correvano, le loro braccia diventarono zampe, i loro visi si allungarono e diventarono musi. E le loro schiene si ricoprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi da dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandavano fuori dei ragli asinini e ragliando sonoramente facevano tutte e due in coro: «I-a, i-a, i-a!» In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse: «Aprite, sono l'omino! Sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese! Aprite subito, guai a voi!» Capitolo 33. Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi. Ma una sera zoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio. Ed entrato che fu nella stanza, disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo: «Bravi ragazzi! Avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce. E per questo eccomi qui.» A tali parole, i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù, con gli orecchi bassi e con la coda tra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò. Poi, tirata fuori la striglia, cominciò a strigliarli per bene. E quando, a furia di strigliarli, li ebbe fatti lustri come due specchi, allora

Lo compro unicamente per la sua pelle, vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese. Beh, lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore, appena pagati i 20 soldi, condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare. E messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diede improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo. E il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sullo scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle. Capitolo 34. Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima, ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane. Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo: «Oh beh, a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo tamburo». E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, tira, tira. Alla fine vide apparire a fior d'acqua. Indovinate? Invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo credé di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta con gli occhi fuori della testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse, piangendo e balbettando: «E il ciuchino che ho gettato in mare, dov'è?» «Quel ciuchino sono io!» «Tu?» «Sì, io!» «Ah, Mariuolo, pretenderesti forse burlarti di me?» «Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone, io vi parlo sul serio!» «Ma come mai tu, che poco tempo fa eri un ciuchino, ora, stando nell'acqua, sei diventato un burattino di legno?» «E sarà effetto dell'acqua del mare, il mare ne fa di questi scherzi!» «Bada, burattino, bada! Non credere di divertirti alle mie spalle! Guai a te se mi scappa la pazienza!» «Ebbene, padrone, volete sapere tutta la storia vera? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò!» Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato. E allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così: «Sappiate dunque che io ero un burattino di legno, come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti, se non che per la mia poca voglia di studiare per dar retta ai cattivi compagni, scappai di casa. E un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me! Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi!» Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata, rimasi zoppo da tutte e due le gambe. E allora il direttore, non sapendo cosa farsi di un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato. Purtroppo, e ti ho pagato 20 soldi. E ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi? E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo, un tamburo! Purtroppo. E ora dove troverò un'altra pelle? E non vi date alla disperazione, padrone. Dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo. Ah, dimmi, monello impertinente. E la tua storia finisce qui?